Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spine nel mio microfono, so bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle palle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi danno olio all'ingranaggio. Colletti bianchi al potere, tra bocchini sotto scrivanie tracciano strategie per nuove lobotomie. Squali vogliono vegetali, schiavi in fila come militari, perciò mandano i loro emissari a scuola i miei professori, in strada pubblici ufficiali, messaggi subliminali nei televisori, predicatori vendono la fede a rate. Comprare ubbidire, ma non sapranno mai le mie coordinate. Non hanno capito che la chance che mi piego subito, che una moneta cade croce 100 volte di seguito, valgo più di 4 cifre, non credi? Cronache di regime, cose che non vedi. Cose che non vedi, che non vedi. Cospirazione, cospirazione, per il 2000, per il 2000, sana scuola, sana scuola, sana scuola. Buonasera a tutte e tutti, sono le 19.03, oggi lunedì 11 aprile, andremo in onda con l'ultima puntata in diretta di Cronache di Regime, l'ultima puntata stagionale, poi avremo uno stop di un paio di settimane, lunedì 18 che è Pasquetta, lunedì 25 aprile non andremo in onda in diretta con i soliti appuntamenti di Mana Radio in streaming in diretta, appunto con Radio Fango e Cronache di Regime, e ripartiremo con la programmazione da lunedì 2 maggio. Di sicuro partirà un nuovo programma che si chiamerà Tagadà Tutti sulla Giostra, ma avremo tempo insomma per pubblicizzarlo più in là e anche in questo periodo di stop alle dirette. Allora, Cronache di Regime, come dicevamo, ultima puntata, ricordiamo i contatti, se volete contattarci in diretta potete scriverci al 351 5579 698, via sms o via telegram, e poi potete scriverci sia sulla pagina Facebook di Cronache di Regime che su quella Instagram, basta scrivere Cronache di Regime con la K e dovrebbe uscire in maniera semplice e rapida, oppure potete scriverci all'email sempre Cronache di Regime @autistici.org. Allora, andiamo un po' a spiegare degli argomenti che tratteremo oggi. Allora, subito dopo la prima canzone intervisteremo una compagna che ci spiegherà la situazione di Vincenzo, il compagno che è stato condannato per il G8 del 2001 e che per anni è stato latitante, e per cui insomma ci sono già stati vari gradi di giudizio in Francia, l'Italia ha provato a chiedere l'estradizione, non è stata concessa, e a breve si dovrebbe esprimere la Corte di Giustizia Europea. Ricordiamo che venerdì 22 ci sarà un'iniziativa presso la panetteria occupata appunto per parlare di questa situazione qui. Poi intervisteremo un compagno di Bologna che ci presenterà il libro Il fascismo a Bologna, sentiremo dei compagni e delle compagne con degli aggiornamenti sia per quanto riguarda dell'occupazione dei sgomberi che ci sono state a Milano nelle settimane scorse e che abbiamo trattato in diretta sempre nelle scorse puntate, e proveremo a collegarci in diretta dal tetto con gli occupanti e le occupanti, i resistenti e le resistenti di Viale Corsica 81 a Firenze, che settimana scorsa è stata rioccupato, meglio le persone si sono ripresentate direttamente sul tetto e praticamente stanno iniziando questa resistenza ad oltranza. Sono già 7 giorni che sono sul tetto, penso che sono stremati sia loro che le guardie che pensavano con l'inganno, insomma, anzi hanno sgomberato con l'inganno quello spazio occupato ormai da 10 anni, e forse qualcuno ha deciso di fargliela pagare un pochino, e quindi proveremo a sentire le persone che sono sul tetto. Poi faremo una chiacchierata riguardo la situazione della carcerazione in Cile e tutte le mobilitazioni sulla legge 321. Avremo un contributo audio che è quello che è saltato settimana scorsa riguardo la mobilitazione che c'è stata il 31 marzo in via Montebello per i migranti e le migranti, quindi un compagno della rete Ci Siamo ci ha mandato un contributo audio. E poi infine chiuderemo come al solito con l'intervista ad un gruppo musicale Abbiamo scelto di non intervistare un gruppo musicale che presentava un nuovo album, ma abbiamo preferito dare spazio a un gruppo storico tecnopunk della zona, tra Milano e Monza, non solo, Sesto, insomma, chi più ne ha più ne metta, e intervisteremo in diretta i Filthy Generation e ci faremo una chiacchierata con loro. Allora, ora andiamo subito con la prima canzone, però volevamo ricordare che un anno fa un compagno ha deciso di andarsene, quindi questa puntata la dedicheremo in maniera integrale a Bruno, e come l'anno scorso metteremo insomma una canzone, anzi metteremo scusate, un paio di canzoni che abbiamo messo anche l'anno scorso in diretta. Metteremo proprio le stesse. Iniziamo con la canzone di maggio, appunto, rielaborata da Bruno, che ora non c'è più, e poi proviamo a tornare in diretta e a farci una chiacchierata con la compagna per la situazione di Vincenzo. E anche se il vostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. E anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciamoci in buona fede massacrare sui marciapiedi, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, voi non potete fermare il vento, vi fate solo perdere tempo. Allora, torniamo in diretta, scusate per aver avuto un po' di problemi tecnici, pensavo che era caduta la connessione e in realtà no. Allora, ora proviamo a farci una chiacchierata con una compagna appunto riguardo la situazione di Vincenzo. Ciao, pronto, ci senti? Pronto, sì, sento. Ok, ciao, ciao, buona serata, buonasera e benvenuta a Cronache di Regime. Allora, se grazie. Vogliamo partire, insomma, con cercando di fare una panoramica generale della situazione del compagno, di certo. Tutto quello che è accaduto anche in questi anno e mezzo scorsi, insomma. Sì, vi faccio una breve storia riepilogativa e poi arrivo all'oggi, diciamo. Allora, vabbè, la storia del compagno Vincenzo Vecchi inizia, come ben sappiamo, durante le calde giornate del G8 di Genova del 2001, uno dei diversi controvertici dove migliaia abbiamo manifestato contro il sistema capitalista, l'imperialismo, eccetera, e a Genova in particolare, ma non solo, ne è seguito, anche qui lo sappiamo bene tutti, una reazione estremamente brutale, violenta e inaudita da parte dello Stato. Dopo il luglio del 2001 e quindi il G8 di Genova si è aperto un processo eminentemente politico a carico di diversi manifestanti che è durato più di 10 anni e che ha visto una sentenza di primo grado nel 2007 con la condanna di 25 manifestanti a più di 100 anni di carcere, di cui 10 accusati del famigerato reato di devastazione e saccheggio 419 del codice di procedura penale di, anche qui lo sappiamo tutti, di matrice fascista. Il secondo grado di questo processo si è svolto nel 2009, 15 manifestanti sono stati prosciolti e ne sono rimasti imputati 10 a 100 anni di carcere, no? Da cui poi è nato il famoso slogan del 10%, no? 10 manifestanti per 100 anni di carcere. Infine il processo si è concluso con la Cassazione del 12 luglio del 2012, quando 5 dei 10 manifestanti sono stati condannati in quell'ambito e altri 5 rinviati al secondo grado di giudizio per il chiarimento di un elemento del processo e poi comunque condannati tutti e 5 nel 2013. Alcuni di questi compagni sono andati a finire in galera immediatamente, hanno scontato la loro pena con tutte quelle che sono state le ricadute anche umane, no? Ovviamente. Qualcuno ha scelto la strada della latitanza, come ad esempio Vincenzo, ma non solo, perché anche il compagno Jimmy Puglisi è stato latitante, e anche, mi piace ricordarlo qui con voi, Luca Finotti, anch'egli compagno che è stato condannato per i fatti di Genova, latitante, era stato nel 2017 incarcerato a Vigevano, poi in una comunità di stampo cattolico cristiano, dove comunque era anche lì in una situazione di privazione della libertà, e attualmente incarcerato a Cremona. E dovrebbe avere il fine pena tra agosto e dicembre, adesso va bene, vediamo anche un po' la sua situazione, la stiamo seguendo. Allora, ritornando a Vince, lui invece ha fatto la scelta dalla latitanza, che tutto sommato è durata diversi anni, fino a che non è stato arrestato nell'agosto del 2019 in Bretagna, precisamente sul posto di lavoro dove stava lavorando. Lui abitava e abita a Rochefort-en-Terre e lavorava nei dintorni, e lì è stato arrestato attraverso un'operazione internazionale di collaborazione tra le polizie. E incarcerato a Rennes, poi è stato liberato dopo qualche mese per un vizio di procedura formale. E, ecco, è bello sottolineare che proprio da questo momento in poi si è creato, no? Si sono creati una serie di comitati di solidarietà nei confronti della storia di questo compagno, che sono arrivati addirittura a contare una trentina di comitati, sto parlando in Francia, a partire dal nucleo, no, di Rochefort-en-Terre e poi anche in altre città, Nantes, Rennes, fino a Parigi. Comitati che anche per noi qua in Italia sono stati un'esperienza molto molto interessante, perché non erano dei comitati militanti, no, a cui magari noi siamo un pochino più abituati, ma erano proprio dei comitati popolari, nel senso che c'erano tanti pezzi e ci sono tanti pezzi della società civile e secondo le nostre riflessioni questo è dovuto anche un po' al fatto che lì c'è proprio una visione di Genova, di quelle che sono state le giornate di Genova, che è molto diversa da quella che noi abbiamo qui, no? Lì per loro non esiste. Genova è stata essenzialmente una mattanza da parte delle forze di polizia e un grandissimo esempio di repressione e nei confronti dei manifestanti, e quindi tutto il discorso, il leitmotiv che qua è durato anni, della divisione buoni cattivi, chi andava bene, chi era più violento, chi era meno violento, chi era più buono, chi era meno buono, eccetera, per loro è tutto una visione che non esiste, così come la figura del black bloc, no? Vincenzo non è un black bloc. Qua in Italia, purtroppo, da gran parte della società civile che ha raccolto, comunque si è assuefatta a questo tipo di immaginario, c'è la figura del black bloc. Lì invece no, Vincenzo è Vincenzo, e quindi per loro va liberato senza se e senza ma. Questa è un po' l'idea anche che ci siamo fatti noi, anche andando lì a trovarli, a fare riunioni, parlare, eccetera, eccetera. Comunque, dopo la scarcerazione ci sono state diverse udienze e diversi rinvii in Cassazione. Ricordo in particolare un pronunciamento, che è quello della Corte di Angers, del 4 novembre del 2020, che per noi è stato molto importante perché ha detto a chiare lettere di non riconoscere il reato di devastazione e saccheggio, perché il punto è anche questo, cioè che lì in Francia non esiste il reato, la giurisprudenza francese non riconosce, no, questo, non ha questo tipo di reato, quindi comprendere che cos'è, eccetera, insomma, la Corte di Angers non lo ha riconosciuto. Se noi consideriamo che la maggioranza della pena di Vincenzo, che è multipla, no? Gli anni di pena sono dati da una serie di reati, però il reato più grosso è quello di devastazione e saccheggio, che qua prevede una pena molto alta, no? Perché va dagli 8 ai 15 anni e lì nel processo di Genova ne hanno dati tanti di anni per devastazione e saccheggio. Poi apro e chiudo parentesi, non solo a Genova, perché poi da lì in poi il reato è stato utilizzato più volte anche in spazi chiusi, in molte occasioni, e quindi abbiamo tanti compagni che sono stati e sono colpiti da questo reato qui. Vabbè, comunque ovviamente l'avvocato generale, che lì è l'alter ego del nostro PM, ha fatto ricorso in Cassazione a questo pronunciamento, e poi alla fine la Cassazione di Parigi ha deciso, no, essendo in dubbio, di riportare, no, rimandare tutta questa vicenda in Corte di Giustizia Europea, e qui arriviamo al presente sostanzialmente. Corte di Giustizia Europea noi non sapevamo neanche che esistesse, sinceramente, prima di entrarci attraverso questa vicenda, e devo dire che anche la maggioranza degli avvocati hanno dovuto studiare un po' la questione, perché ci si addentra in un ambito e in un'area che per noi è abbastanza sconosciuta, ecco. Lì com'è funzionato? Al momento ci sono state due sedute, diciamo così. La Corte di Giustizia Europea intanto era, quando almeno c'è stata la prima seduta riguardante il caso del compagno, composta da 5 giudici, e la presidenza era estone, dell'Estonia, e invece l'accusa è greca. In particolare l'avvocato generale, che è appunto il nostro PM, si chiama Rantos, che è un greco, e tra l'altro è anche uno che ha un curriculum un po' così, nel senso che è un po' un destroide comunque. Abbiamo fatto, c'è stata una prima seduta il 20 gennaio, quando era il turno della difesa, e Vincenzo lì è stato rappresentato da tre avvocati. Una è l'avvocatessa che francese Madame Glon, che lo segue da sempre, lei e il suo studio lì in Bretagna, e poi il cassazionista Matonè, sempre francese, e poi il cassazionista nostro italiano Barletta. Ovviamente dietro a loro poi ci sono a diversi altri avvocati che hanno fatto tutto un lavoro per preparare la memoria difensiva, eccetera, eccetera. Lì però la Corte di Giustizia Europea si è espressa in modo un filino nebuloso in quell'udienza lì, in quella seduta lì, perché ha etichettato l'affare Vecchi, come lo chiamano lì, come un dilemma, cioè a dire che non sanno bene come comportarsi, perché ci sono tutta una serie di difficoltà su questo MAE. C'è il problema del reato di devastazione e saccheggio che non è riconosciuto, c'è il problema di capire qual è il significato di ordine pubblico qua in Italia, che invece i francesi ce l'hanno diverso, e quindi ci sono una serie di problematiche. Comunque il 31 marzo si è svolta la seconda seduta, quindi l'altro giorno, il 31 marzo, in cui si è espressa l'accusa, e quindi questo avvocato generale barra PM greco di cui parlavo prima, che va bene, ha fatto l'accusa e quindi ha detto cose che ci aspettavamo assolutamente, di conseguenza che il MAE è valido, va bene, e che e quindi si è espresso a favore dell'estradizione. Magari una curiosità può essere che l'Italia in tutto questo, in questa platea, era assente, nel senso che non si è mai presentata, e anche questo è un elemento magari interessante su cui ragionare. Quindi adesso sostanzialmente che cosa succede? Che ci hanno riferito, senza darci una data precisa, che però sostanzialmente tra l'estate e settembre, quindi insomma nei prossimi mesi, proprio prossimi mesi, la Corte di Giustizia chiuderà il suo, ragionerà, no, su quanto ha sentito, e metterà un parere che è vincolante, e lo farà pervenire alla Cassazione di Parigi, perché comunque deve essere lei, no, a chiudere questa questione. E quindi siamo proprio probabilmente agli sgoccioli e alla conclusione di questa vicenda, che è stata anche rallentata indubbiamente dal Covid, eccetera, e quindi dal fatto che sono saltate delle udienze e via dicendo. Comunque direi che siamo, insomma, in dirittura d'arrivo. E questa è un po' la storia, gli antefatti e l'attualità. E invece volevo chiederti, ma se non mi sbaglio, il 22 ci dovrebbe essere un'iniziativa. Sì, esatto. Se abbiamo voglia anche di rilanciare questa iniziativa, date tutte le informazioni che hai dato, certo, e gli spunti di riflessione, giustamente anche come sottolineavi tu, insomma l'Italia ha avviato questa procedura, poi alla fine non si è presentata, chi spinge per l'estradizione, un PM greco destrorso, cioè una situazione alquanto bizzarra e complicata, ma soprattutto il fatto che una persona dopo 20 anni debba essere privata della propria libertà per un processo arretrato, per delle situazioni veramente arretrate, è un contesto di vita che è totalmente differente probabilmente da quello che aveva all'epoca. Poi questo è un appunto mio, però appunto essendoci questa iniziativa, secondo me che è molto importante, venerdì 22, se abbiamo voglia di rilanciarla. Assolutamente sì, proprio in virtù del fatto che la questione si sta per chiudere e che indubbiamente nell'ultimo periodo abbiamo fatto meno iniziative, meno meno solidarietà e meno comunicazione, un po' per l'isolamento del Covid, un po' perché comunque i tempi si sono dilatati e per cui allora è importante adesso cercare di rilanciare un po' la questione. Quindi il 22 aprile presso la panetteria occupata via Conte Rosso 20 a Milano abbiamo organizzato questa iniziativa. Prima faremo dalle 7 in poi un aperitivo, poi intorno alle 20:30 inizieremo e la nostra scaletta è, beh, il filo conduttore dell'iniziativa sono un po' i rapporti tra Italia e Francia. Sia da un punto di vista repressivo, ma non solo, anche da un punto di vista più geopolitico, perché infatti, vabbè, sicuramente abbiamo il collegamento con il comitato di sostegno per Vincenzo in Francia, che avrà elaborato una sua riflessione dopo anche il pronunciamento del PM e ce la racconterà e ci racconteranno anche le loro prossime iniziative, scadenze, eccetera. E poi abbiamo un po' questo intervento da parte di un compagno ricercatore che si occupa di politica internazionale, anche energetica, proprio sui nuovi rapporti anche sotto il profilo imperialista tra Italia e Francia, i nuovi accordi recentemente siglati rispetto all'assoggettamento e allo sfruttamento energetico, in particolare in Africa. E poi infine avremo i comitati NOTAV, in particolare quelli che ci racconteranno la situazione attuale sulla frontiera appunto Italia-Francia, dove, ricordo, succedono spesso e volentieri fatti anche di una certa gravità. E poi ci daranno un po' di aggiornamenti sulla situazione del compagno Emilio Scalzo, anche lui, no, che è stato colpito da un mandato di arresto europeo all'interno delle iniziative NOTAV richiesto dalla Francia all'Italia. L'Italia ha concesso l'estradizione e lui, sappiamo che a fine anno scorso era recluso in carcere in Francia e quindi poi vabbè, adesso è stato liberato, però gli obblighi di dimora, credo anche quello di firma, comunque ce lo faremo spiegare bene dal comitato. E allora ci tengo a precisare che è vero, qua abbiamo dei nomi, no, di compagni, Vincenzo Vecchi, Luca, Emilio, eccetera, però è evidente, no, che stiamo parlando di operazioni di repressione derivanti da iniziative, manifestazioni, attività di critica, no? Di manifestazione di un senso critico a cui partecipiamo tutti. Quindi, come dire, la solidarietà è un'arma. Adesso abbiamo dei nomi, no, dietro a coloro che sono stati colpiti, però è chiaro che bisogna fare dei discorsi che sono chiaramente di natura collettiva, perché all'interno delle manifestazioni, dei presidi, delle proteste, eccetera, ci siamo tutti. Poi vabbè, la repressione ogni tanto colpisce qua, là, su e giù, e quindi è importante, no, fare cerchio intorno e dare solidarietà, anche perché poi queste vicende hanno un impatto sia giuridico e sia anche di agibilità politica che andrà a pesare, o comunque a incidere, anzi più che pesare, sia negativamente ossia positivamente su tutti noi. Quindi insomma l'ottica rimane sempre collettiva, chiaramente, però è importante andare a vedere che cosa succede e cercare di dare la nostra solidarietà come sempre, insomma. Sì, perfetto, volevo giusto fare un'aggiunta che, se possibile, sul fatto dell'Italia-Francia e della loro collaborazione a livello repressivo. Un paio d'anni fa, insomma, era stato arrestato un compagno in Francia, appunto, durante un'operazione contro gli anarchici, sempre ridenominata Bialystok. Appunto, questa compagna è stata arrestata a Saint-Étienne, è una compagna che era appunto latitante per l'operazione Scintilla di Torino. è stata trovata in Francia, arrestata appunto grazie alla collaborazione delle due polizie e non solo. Quindi comunque questa cosa qui, oltre che per dei reati molto vecchi, cioè, diciamo è un continuo, insomma. È un continuo, infatti, hai fatto collaborazione. Bene a ricordarla adesso mentre me parlavi, mi è venuto in mente tutto, sì. Certo. E probabilmente ce ne sono tante altre che noi non conosciamo, sì, perché non sono magari di matrice politica, però appunto a livello repressivo di sicuro Italia e Francia si danno una mano a vicenda da anni, sia per le questioni migranti, come hai detto tu. È molto importante anche questa modalità di provare a cercare di interconnettere le lotte anche in base all'ottica repressiva degli stati, e quindi non soffermarsi solo sulla repressione statale, ma anche su quella appunto internazionale che provano a mettere in campo. E niente, quindi rilanciamo questa iniziativa del 22 in panetta. Va bene. Ok, guarda, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Penso di avere altre domande perché hai detto tutto. Grazie mille veramente a te e ci vediamo venerdì 22. Va bene, perfetto. Okay, perfetto. Grazie a tutti. Okay, ciao, un abbraccio, ciao, buona serata. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao anche a voi, ciao. Allora, ora, dopo l'intervista ci sentiamo un po' di musica, dopo andremo a presentare il libro Il fascismo a Bologna. Allora ci sentiamo due pezzi di due grupponi punk hardcore, uno anni 80 e uno anche anni 80, ma rifà la cover appunto The Dead Kennedys. Ci sentiamo Nazi Punks Fuck Off, la versione originale The Dead Kennedys, e poi quella grindcore dei Napalm Death, e poi torniamo in diretta con Cronache di Regime. Fuck Off, overproduced by Martin Hannett, take 4. If you're gonna fight, get out of here. You ain't no better than the bouncers. We ain't trying to be police, so you ain't the cops, it ain't anarchy. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! They've got your point, what a man! They fight each other, the police, they wins. Stab your backs and trash your holes. Trash your bank if you got real balls. There's nothing like the guns, the ghoul, real Nazis on your school. I caught your face, there's been a cop in a real force, making me the first to go. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! You've been the first to go, you've been the first to go, you've been the first to go, unless you think! Torniamo in diretta con Cronache di Regime. Questi erano i Napalm Death con Nazi Punks Fuck Off, e come detto proviamo a farci una chiacchierata con Ivan Spada, che è l'autore del libro Il fascismo a Bologna, edito da Red Star Press, storia delle camicie nere all'ombra delle due torri tra il 1919 e il 1945. Ciao, ci senti?

Vi interessa il Kung Fu? Sono qui per insegnarvelo. Avanti. La sua è lotta cinese pura. Era il colpo numero 4. Unghiata mancina del drago. 20.07, questi erano gli Istigazione a delinquere come un ninja. E in questa serie di puntate, in queste 10 puntate di Cronache di Regime, abbiamo parlato spesso e volentieri di sgomberi. Abbiamo parlato dello sgombero di casa Brancaleone. Prima ci siamo collegati con una compagna che ci ha detto, insomma, della nuova occupazione in via Enrico Cialdini, e continuiamo ad invitare tutte e tutte domani all'iniziativa, appunto, della libreria Nanzi dalle ore 18. E ora ci ricolleghiamo. Sono molto contento di farlo con i compagni e le compagne che hanno rioccupato lo Viale Corsico 81 a Firenze e sono sul tetto da ben 7 giorni. Pronto, ci sentite? Scusa, non sento niente. Non senti niente? No, scusami, ti sentivo un po' male. Ecco. Ok, ora ti sento. Ora mi senti? Sì, ora ti sento. Allora, niente, dello sgombro abbiamo parlato proprio con te poi in maniera abbastanza ampia in una puntata precedente, e quindi se vogliamo, al posto di parlare dell'infame sgombero che gli sbirri vi hanno propinato un po' di tempo fa, se vogliamo parlare invece di quello che è accaduto da martedì scorso fino ad oggi e sta ancora accadendo nella libera Repubblica dei Rifredi praticamente. Sì, intanto ciao a tutti e tutte, grazie della disponibilità e della possibilità. Ma intanto, vabbè, piccolo resoconto delle puntate precedenti, ci eravamo lasciati un po' con il 15 marzo lo sgombero, il 21 c'erano state le risposte dei 4 arrestati processati poi per direttissima. Diciamo, nei giorni dopo comunque abbiamo continuato a essere presenti in quartiere. E avevamo in programma già da tempo, cioè da prima dello sgombero, un'iniziativa il 2 aprile all'Area Cani, qua in fondo a Viale Corsica, e l'abbiamo comunque fatta nonostante lo sgombero, sfidando un po' la questura, la possibilità che ci fossero camionette Digos presenti, ed è andata comunque molto bene. E mentre vi avevamo detto anche che c'era, che il modo in cui ci avevano sgomberato era stato con uno sfratto, no? Un finto sfratto. Beh, quello sfratto poi c'è stato, che doveva essere con la forza pubblica il 23, e grande vittoria, diciamo, anche forse in risposta al corteo che c'è stato, alla mobilitazione che c'è stata, la forza pubblica non si è presentata allo sfratto e quindi, diciamo, è rimandata a data da destinarci. E invece il 5 aprile, martedì scorso, abbiamo deciso di riprenderci casa nostra, che poi non è solo casa nostra, come abbiamo scritto più volte, ma è un po' un posto che è sempre stato aperto a tutti, e beh, comunque lo sappiamo, lo sapete. E niente, il posto era stato murato fin da subito, fino dal... Quindi dal primo sgombero la notte stessa, e comunque, insomma, ed era stata posta una guardia giurata a sorvegliare la zona, l'area davanti a Viale Corsica 24 ore su 24. E nonostante questo, comunque, ci siamo fatti beffe sia della guardia sia della Digos e siamo rientrati. E diciamo che il fatto di essere rientrati comunque in Viale Corsica ci ha permesso anche di recuperare diverse cose, diciamo, da casa, che ci hanno permesso di acchittare un bel tetto, diciamo, un bel accampamento qua con cui stiamo resistendo da 7 giorni. E diciamo, la volontà, ne abbiamo parlato diverse volte, se prendere un altro spazio o perché riprendere Corsica. E, diciamo, la motivazione è sicuramente intanto perché ci manca, e poi perché comunque in questo quartiere abbiamo costruito dei legami molto forti, e lo dimostra anche la solidarietà che stiamo ricevendo da tantissimi dei nostri vicini, uno degli esempi più eclatanti penso sia il fatto che durante il primo sgombero una vicina bardata ha cominciato a lanciare arance dalla finestra verso il ragazzo che era qua sul tetto. E altro esempio eclatante è stato un comunicato scritto da alcuni abitanti del quartiere di Viale Corsica che è stato letto poi al presidio giù in strada, molto molto bello. E quindi appunto proprio per continuare ad avere questi legami con il quartiere che sappiamo sono molto forti, abbiamo voluto riprendere Corsica. E diciamo durante i primi giorni il comportamento degli sbirri, diciamo in questo momento stanno chiudendo la strada che fa accedere a un tratto di Viale Corsica con due camionette, e davanti a queste due camionette c'è il presidio dei solidali che insomma è nato da subito la mattina stessa e che si è trasformato, come dire, anche quello nella Libera Repubblica di Rifredi che sta praticamente con noi da mattina, pomeriggio, notte, sempre, e sta organizzando continuamente iniziative dal cineforum a presentazione di libri, chiacchiere, assemblee, comunque un presidio molto vivo che comunque ci tiene anche molto alto il morale, diciamo, non ci sentiamo mai soli, siamo sempre qua con loro. E che tra l'altro ogni giorno aumenta sempre di più, ora questo fine settimana erano presenti davvero tante tante tante persone. E si stanno avvicinando chiaramente per quanto possibile anche i vicini. E per quanto riguarda per l'appunto il comportamento degli sbirri, della Digos in particolare qua sotto, diciamo durante nei primi giorni, i primi due o tre giorni, ha provato diciamo con la forza a farci scendere cercando di darci noia in tutti i modi possibili, durante la notte soprattutto, battendosi da sotto il tetto per non farci dormire, con luci a intermittenza, con domande frequenti. E quando poi hanno capito che la cosa non ci toccava minimamente hanno smesso e quindi per adesso sono calmi, diciamo, almeno la notte noi continuiamo a fare turni, continuiamo a stare svegli, ma diciamo che non fanno niente di che. Hanno chiamato forse... più volte. Sì, forse quelli sotto sono un po' più esagitati, visto che oggi poi si è verificata pure una situazione spiacevole. Esatto, sì, esatto. Infatti volevo parlarvi soprattutto di questo perché è un fatto estremamente grave e noi cercheremo in tutti i modi di fargliela pagare, perché delle compagne hanno provato a portarci da mangiare attraverso un sacchetto, cosa che è già stata fatta tra l'altro, ma che non si sono mai accorti della cosa. Per farvi capire quanto sono svegli, però oggi diciamo sono state viste e visto che c'era questa corda calata dal tetto, due carabinieri insieme a un digossino si sono arrivati vicino alla corda e hanno avuto la brillante idea di cominciare a tirarla, nonostante ci fosse una persona che la teneva da sopra, il che ovviamente si è rischiata la tragedia, che questa persona cascasse di sotto, che per fortuna non è successo. Quindi sì, diciamo che da sotto sono parecchio esagitati, anche perché diciamo che il presidio li tiene sempre, sempre svegli, va in movimento. Stanno a rosicare, stanno un po' a rosicare. Sì, dai. sì, stanno rosicando davvero tanto, anche perché probabilmente non se l'aspettavano che rientrassimo qua, erano talmente... anche la curatrice fallimentare dell'immobile che appartiene a una società fallita è rimasta sbalordita, addirittura fermata sui giornali, non capisco come sia possibile che dopo aver murato tutto questo posto loro siano riusciti a entrare, insomma l'abbiamo ringraziata per i complimenti. E quindi sì, non se l'aspettano e poi non si aspettavano soprattutto una resistenza così lunga, una determinazione così forte. E va bene, dai, noi siamo molto contenti e contente, insomma, di questa situazione che si sta creando. Sì, su... e poi volevo dire, io sono anche molto, siamo molto contenti e contente del fatto che subito dopo lo sgombero del bancarotta a Bologna sia stato subito rioccupato, che nella stessa settimana anche il Branca ha rioccupato. Quindi diciamo siamo nella giusta onda, insomma, questa settimana sono successe un sacco di cose belle. Sì, poi per un appunto non è proprio stato rioccupato il bancarotta, diciamo che è stato riaperto. Sì, però per dirlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e diciamo che dei pezzi di muro, dei mattoni che gli sbirri e la locale avevano usato per murarlo, insomma, sono stati riportati al mittente, quindi è stato costruito un muro simbolico davanti alla sede della locale di riferimento che aveva sgomberato il posto. Comunque sì, ci si è mossi anche a Bologna e anche a Milano. E niente, che ti volevo dire, non volevo rubarti altre energie, perché immagino che stare 7 giorni sul tetto con gli sbirri, che comunque bene o male ce l'hai addosso, anche se non vi stanno più ancora addosso, sì, però stanno là. Voi, sì, comunque stiamo bene, comunque nel state senso bene, state noi precisi. Siamo determinati a resistere ancora. Se ci avete le birrette state precisi sicuro, quindi magari sono finite. Mancano solo quelle. E va bene, noi per ora questa è l'ultima puntata di Cronache di Regime, però comunque ci sentiamo e ci sentiremo, e in qualche maniera faremo uscire altre cose, semmai ci saranno aggiornamenti. Resistete, un abbraccio forte certo a tutti e tutte sopra, e mi raccomando, non mollate. Anche a voi, ciao, okay. Grazie, un bacio. Ciao, buona serata a voi, ciao. Abbiamo parlato con i compagni e con le compagne, insomma, che sono sul tetto ora in Viale Corsica, e ci sentiamo un gruppo di Firenze, ci sentiamo un paio di pezzi perché durano poco, ci sentiamo gli Attaccabrighe con l'omonima Attaccabrighe, e poi sempre Attaccabrighe dai Sobborghi, siccome parliamo di rifredi, questa canzone è appuntino dai Sobborghi di Attaccabrighe, e poi torniamo in diretta. Dai sobbordi, dai sobbordi, dai sobbordi, dai sobbordi, dai sobbordi, dai sobbordi. fuochi, testo fuori, ci ritrovi ad un concerto o al teatro ad uno, a urlare sotto al palco, i livelli siamo testo fuori, testo fuori, testo fuori, testo fuori, testo fuori, testo fuori. La Fiesole ha un solo cuore che sempre batterà e mai si fermerà e brillerà per sempre la stella di Firenze, la nostra fede grande ma tramonterà l'Europa, l'Italia, Firenze, un solo grido si alzerà. Fiorentina, oe! Fiorentina, oe! Gobbi! Allora, torniamo in diretta con Cronache di Regime. Stiamo provando a contattare il compagno con il quale dovevamo farci una chiacchierata riguardo all'iniziativa che c'è stata sabato 26 marzo. Gli spari a Est sono anche per noi, riguardo insomma guerre, rivolte, repressioni tra Kazakistan, Russia e Ucraina, ma non sta rispondendo, quindi scusate per il disguido in diretta. Ora proviamo a ricontattarlo. Torniamo a breve. Allora, torniamo in diretta, non siamo riusciti a contattare purtroppo il compagno per parlare di quell'iniziativa e quindi suo malgrado abbiamo chiamato subito una compagna con cui invece dovevamo parlare un po' della situazione carceraria in Cile. Ciao, ci senti? Ciao, sì, vi sento. Ciao. Voi mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. Ciao, buonasera e benvenuta. Perfetto. A Cronache di Regime. Tutti. Allora, niente, noi... E avevamo parlato già sabato durante l'iniziativa che c'era stata all'Ateneo Libertario e quindi niente, volevo un po' che ci facessi un quadro sulla situazione dei prigionieri e sulla situazione della carcerazione in Cile. Sì, cercherò di essere diciamo esaustiva e breve, ci sarebbero tantissime cose di cui parlare. La situazione in Cile a livello carcerario è molto complicata. A seguito della rivolta scoppiata nel 2019, l'esplosione sociale, no? Come viene definita, sono finiti in carcere più di 2.000 giovani e ad oggi la situazione è ancora abbastanza pesante perché sì, alcuni sono usciti, ma ne rimangono ancora più di 1.000 in tutte le carceri del territorio cileno. Ci sono poi più di 60 comuneros mapuche, popolo originario, diciamo, che vive tra Cile e Argentina, quindi più di 60 compagni mapuche. Abbiamo anche un caso di clandestinità, ovviamente incarcerati tutti nel contesto di lotta per il recupero delle terre ancestrali contro le grandi multinazionali e gli stati di Cile e Argentina. Oltre ovviamente vanno sempre ricordati gli antichi, no? Prigionieri politici, cioè tutti coloro che sono in carcere e tanti di loro purtroppo ci rimarranno per tutta la vita, che sono quelli della resistenza, diciamo, al regime fascista di Pinochet. La situazione è abbastanza complicata, come vi dicevo, e si sommano ovviamente tantissimi compagni, diciamo, sovversivi e anarchici provenienti dai diversi territori dominati dallo Stato cileno, ovviamente condannati o in attesa di giudizio per diversi reati. Io dico sempre, la repressione la conosciamo un po' in tutto il mondo. La cosa bella è che in Cile si lavora a fianco dei prigionieri politici e si lavora per i prigionieri politici. Sono nati tantissimi collettivi quasi spontaneamente in tutti i quartieri del Cile, che appunto quotidianamente appoggiano, diciamo, e sono presenti nella vita carceraria, no? Delle migliaia di persone, di compagni che stanno in carcere negli ultimi anni. Quindi abbiamo un sacco di persone solidari che organizzano pranzi, cene benefit, chi va a comprare i viveri per i prigionieri politici, chi si mette fuori dalle carceri il sabato mattina per le lunghissime file per far entrare, diciamo, i beni di prima necessità. Ricordiamo che in Cile le carceri sono quasi tutte private o convenzionate, per cui lavorano, diciamo, come un negozio, no? Più prigionieri abbiamo, più gente in carcere c'è, e più questi si fanno i soldi. Quindi la vita in carcere non è facile, ma devo dire che è presente, diciamo, una forte solidarietà ed è viva, no? Proprio nei confronti dei prigionieri politici. Ok, volevo chiederti anche due parole riguardo la legge 321, che è quella che dovrebbe modificare la carcerazione preventiva, se non mi sbaglio, ma se vuoi spiegarci tu un po' meglio questa roba qui. Sì, più nello specifico, nel 2021 viene approvata la riforma retroattiva di una legge che era già esistente, la legge 321, che pone delle norme, no? Regola un po' la libertà condizionale dei prigionieri, degli incarcerati. Questa legge, diciamo, la riforma obbliga i prigionieri a compiere 2/3 e non più la metà, come diceva prima la legge, della condanna per accedere alla libertà condizionale, no? Quindi la rende molto più difficile. In più, praticamente si esige una perizia psicosociale degli incarcerati effettuata dagli stessi funzionari del carcere, ostacolando quindi, come potete immaginare, ancora di più l'uscita dalle gabbie. Ovviamente parliamo sempre di un contesto in cui il sistema favorisce la miseria, il controllo, il castigo e la repressione verso tutto ciò che turba la borghesia e i suoi servi. L'anno scorso, proprio per questa questione, sono state numerosissime le giornate di agitazione, le proteste, ma la legge 321 segue comunque vigente, per cui, come dicono in Cile, il ricco non entra mai in carcere e il povero mai ne esce. In più, bisogna dire che in Cile è ancora vigente la legge antiterrorista, che è stata praticamente introdotta con la dittatura Pinochet, quindi potete immaginare, ed è la legge che ad oggi incarcera e rende, diciamo, la vita difficile ai compagni, no? Immaginate essere processati secondo una legge antiterrorista, no? Cosa può comportare questa cosa qui? Perfetto, e vabbè, niente, come dicevo all'inizio, noi abbiamo parlato un po' il 9 aprile. Se ci vuoi dare un resoconto dell'iniziativa del 9 aprile all'Ateneo Libertario, insomma, di come è andata, se ci sono in programma al momento prossime iniziative, oppure non lo so, quello che vuoi aggiungere tu. Sì, l'iniziativa sabato è andata molto bene. Prima di tutto ringraziare i compagni e le compagne dell'Ateneo Libertario che da anni hanno aperto le porte e le mantengono aperte a noi della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche. È importante per loro, ma anche per noi, fare internazionalismo e parlare di internazionalismo, e devo dire che su tutto il territorio italiano riscontriamo diverso interesse, abbiamo diverse porte aperte, infatti abbiamo varie attività, varie iniziative in programma, se vuoi te le elenco. Vai, volentieri. Approfittiamo a invitare tutti. Il 23 aprile saremo a Padova, all'ex Macello, in via Cornaro 1. Il 7 maggio saremo allo spazio Camera Non Lavoro, mi pare, scusate se sbaglio, qui a Milano. A fine maggio saremo a Viareggio, all'Arci Solario, e il 4 giugno a Bellinzona al Circolo Carlo Vanza. Quindi insomma di iniziative ne faremo, e approfitto anche per lasciare il nostro WordPress, mapucheit.wordpress.com, dove non solo pubblichiamo un sacco di notizie che provengono proprio dal Cile, ma potete trovare lì tutte le nostre iniziative e magari anche partecipare, tutti invitati ovviamente. Ok, perfetto, grazie mille. Noi ti ringraziamo per la disponibilità, ti salutiamo. Grazie a voi. Le iniziative le abbiamo date. Approfitto a mandare un abbraccio solidario a tutti i compagni che stanno dietro le sbarre in questo momento, non solo in Cile ma in tutto il mondo, e ai compagni di Viale Corsica che stanno sui tetti e resistono. Sì, che abbiamo sentito prima. Perfetto, esatto. Va bene. Grazie. Ok, ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata. Ciao compa, altrettanto. Ciao ciao, ciao ciao ciao. Noi andiamo avanti con un po' di musica e ci sentiamo Vita Persa degli Occhi Pesti. Come al risveglio dopo un brutto sogno estraniato. Un risveglio, un brutto sogno. Fuori, fuori. Allora, torniamo in diretta, scusate un attimo per i disguidi, sono le 20.35, queste cronache di regime, questi erano gli occhi pesti con Vita Persa, siamo riusciti a recuperare il contatto con il compagno e quindi niente, volevamo un po' avere un resoconto dell'iniziativa che si era svolta il 26 marzo presso il Conchetta. E quindi niente, ti lasciamo la parola. Ciao, ci senti? Sì, sì, vi sento. E niente, l'iniziativa è stata un'ottima iniziativa, sia come partecipazione che come dibattito. Inoltre, tra l'altro, io poi adesso sono praticamente entrato in tour permanente in tutta Italia. Sono rientrato oggi pomeriggio da Roma. Da Roma, sì, dove c'è stata anche un'altra iniziativa. Insomma, sono un po' in giro per tutta l'Italia, e quello che si nota effettivamente è che c'è un gran bisogno di discutere, perché in una situazione in cui l'informazione mainstream a senso unico fornisce solo, come dire, metà, come dire, della propaganda. Se uno vivesse a Mosca riceverebbe l'altro 50% di dose, diciamo. C'è una necessità di orientarsi e di avere dei punti di riferimento. Quello che mi sembra che manchi ancora è come poi entrare nella fase seconda, cioè accompagnare un chiarimento della situazione, di quello che sta evolvendo in Ucraina con l'iniziativa. Ecco, per me, secondo me, è fondamentale questo elemento. Ecco. Certo, e volevo chiederti se hai voglia di darci appunto una panoramica generale, anche abbastanza veloce, del contesto nel quale nasce la volontà di scrivere il libro in uscita. Ricordiamo è già uscito. È già uscito. Ok, allora scusami, perché sulla locandina del 26 marzo c'era scritto autore del libro in uscita, Svoboda, quindi mi sono perso un po' di pezzi. Va bene, allora se hai voglia un po' di dirci due parole al volo. Sì, no, il libro, come diciamo, è un libro che era già stato pubblicato nel 2018, perché sennò sarebbe stato impossibile, a cui naturalmente ho aggiunto una nuova breve introduzione, un nuovo capitolo che tratta, diciamo, delle questioni degli ultimi 2 o 3 anni e prova a identificare quali potranno essere le dinamiche, diciamo, che si aprono con la guerra. E probabilmente è l'unico libro che esiste oggi in Italia di storia dell'Ucraina che si limiti, diciamo, al periodo dell'indipendenza oggi, cioè dal 1992 a diciamo, la guerra del Donbass, con appunto poi un'aggiunta su questo tema. A latere poi avevo aggiunto anche delle appendici che riprendevano una serie di questioni del dibattito storico e in particolare come si poneva la questione dell'indipendenza ucraina allo scoppio della seconda guerra mondiale. In appendice ho messo appunto uno scritto di Trotsky e più altre cosettine, insomma, per riuscire a fornire un quadro, fornire degli elementi, come dire, interpretativi che fossero sufficienti, che siano sufficientemente larghi, soprattutto per chi, come dire, se il termine non fosse diventato proprio ormai liso, si colloca, diciamo, a sinistra e soprattutto in una sinistra antagonista. Ok, guarda, noi ti ringraziamo, ci scusiamo per l'orario, probabilmente ti abbiamo interrotto la cena. Figurati. Giusto per chiudere, ti volevo chiedere se hai già altre date, iniziative in programma, se hai voglia di pubblicizzarle. Guarda, domani sono a Pinerolo, dopodomani sono in Valsusa, giovedì torno a Torino, alla gelateria occupata, poi venerdì sono a Rovato al centro sociale 28 giugno e poi ce ne sono tantissime altre. Un lungo elenco. Si sfora a maggio. Va benissimo. Ok, perfetto. Guarda, grazie per la disponibilità. Ci sentiamo presto. Grazie a voi. Buonasera, grazie agli ascoltatori. Ciao. Allora, ringraziamo il compagno e ci scusiamo, insomma, per la telefonata un po' affrettata. Purtroppo non siamo riusciti a contattarla al volo. Abbiamo anche scalato con la scaletta musicale. Infatti, avevamo sentito prima Gli Occhi Pesti con Vita Persa. Ora torniamo invece su un pezzo che ci fa ritornare appunto sul discorso che abbiamo fatto prima con la compagna riguardo la carcerazione e la solidarietà nei confronti dei prigionieri cileni. Ci sentiamo Vamos 2020 dei Subverso. Confiamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. dieron un acuerdo estos 7M, un acuerdo truquero en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez. Porque saben lo que millones en la calle pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo. Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos. Así que vamos con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron. Nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos, y como si cada uno fuera hijo nuestro, los apañamos. Vamos pa'lante con la rabia de ese octubre, con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren. Sin ingenuidad ni paso en falso y sin negar la efectividad de fuego y camotazo. Vamos a votar pero sin ni una sola ilusión. Sabemos que acá abajo está la solución, ya lo rapeamos antes. ¿Se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Solo en el pueblo confiamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto. Construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación, soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando, los políticos de siempre hay que echarlos cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle, y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie. Saben que ya cambiamos, que abrimos los ojos y nos encontramos. Saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos. Los ricos nunca nos dieron nada, ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas. Pero sobrevivimos como siempre lo hicimos, con la olla común y los vecinos unidos. Y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible. Somos el manso equipo, somos indefendibles. Y es simple, si estamos hablando de democracia, la asamblea territorial es donde más se avanza. Y arca no se transan nuestras demandas originales, solo si estamos activos, vamos a ver cambios reales. Salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Hay un solo camino, hay una sola forma, no hay un atajo para la liberación en toda la historia. No existe pueblo desorganizado que haya triunfado, ni reformista pacifista que te haya durado. Si el horizonte pinta revolucionario, salen los fusiles del cuartel al toque a destrozarlo. Y tú lo sabes, ya lo viste en la revuelta, lo sobreviviste y ojalá te diste cuenta que no hay accidentes, no hay casualidades. Debajo de la acción estatal están las causalidades. La propiedad está en la base de esta sociedad y es el fin final de su institucionalidad. Esa propiedad la cuidan y es la vida del sistema. Sin esa relación no hay explotación ni pena, ni pobres ni ricos, ni pacos ni milicos, ni jueces ni leyes, tampoco calabozo. Y por eso somos peligrosos, quedan con la media pera cuando nos unimos. Y es hermoso porque Piñera no siempre es mentiroso. Estamos en guerra y sí, somos un enemigo poderoso. Estudia y aplica, organiza y planifica, agita, articula territorios y unifica. Que tu gente se sume, se revele y se zumbe, va a generar la huelga general que lo derrumbe. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nosotros producimos todo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.

Grazie a tutte e a tutti, se c'è ancora interesse noi siamo disponibili e potremo sicuramente risentirci molto molto presto. Grazie ancora, ciao. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus. Questi sono i PT Generation del Roundabout Conspiracy. E a breve faremo l'ultima intervista ad un gruppo musicale di questa stagione di Cronaca di Regime. Yeah. 21.07, questa era The Roundabout Conspiracy dell'album appunto Conspiracy The Filthy Generation, e siamo in linea con Simone De Filthy per farci questa chiacchierata col rappresentante massimo di questo gruppo storico lombardo, tecnopunk, milanese, monzese, di Sesto San Giovanni, di un po' ovunque. Ciao, ci senti? Ciao, sì, vi sento a tutti, soprattutto gli ascoltatori di Cronache di Regime. Ok, ciao, benvenuto. Allora, niente, in questa ultima puntata abbiamo deciso che piuttosto che intervistare un gruppo con un nuovo album in uscita, era doveroso farsi una chiacchierata con i Filthy Generation, non solo per quello che rappresentano a livello musicale, quindi innovazione, ma comunque tanta presa bene e soprattutto una carica sul palco quando siete live non indifferente, ma anche per tutti i messaggi e quello che fate in nome del do it yourself. Ma questo poi, in caso, se avrai voglia, ne parlerai un po' te. Noi, come ogni intervista che facciamo ai gruppi, iniziamo sempre chiedendo un po' la storia e la discografia della band. Allora, la storia, beh, noi ci formiamo nel 2004 più o meno, inizialmente però la formazione era diversa, eravamo sempre noi tre, però facevamo elettronica senza strumenti. E da 2009 abbiamo cominciato questo cambio di formazioni, quindi abbiamo cominciato a inserire gli strumenti, quali basso e batteria, e un quarto uomo che ci occupa delle basi e della parte elettronica. E io cantavo. Dopodiché, dopo varie cambi di formazioni, siamo arrivati all'attuale, che siamo soltanto noi tre originali, cioè io, Claudio e lo zio, che siamo ormai, diciamo, i membri fondatori, nonché quelli sempre fissi. Abbiamo deciso, dopo che è andato via anche per l'ennesima volta l'uomo che metteva le basi, poi guardando, gli ho detto vabbè, occupiamoci solo noi e continuiamo ad andare avanti noi da soli. E devo dire che come scelta ha comunque pagato, perché in primis ci conosciamo da tanto tempo, quindi abbiamo anche un'affinità e uno spirito molto affiatato, appunto siamo in grado di capirci in poco tempo, più o meno abbiamo più o meno tutti le stesse idee sul gruppo e soprattutto ci conosciamo da tanti anni, abbiamo sviluppato anche rapporti di amicizia, quindi è una roba che insomma ci è venuta quasi naturale. E i dischi che abbiamo fatto finora, abbiamo realizzato tre dischi, di cui escono due dischi, di cui uno un EP. Il primo disco è autoprodotto e si chiama Conspiracy del 2009, è uscito infatti. Poi abbiamo fatto un EP con una piccola etichetta olandese che si chiama Roots for Your Development, l'etichetta si chiamava, si trova su Bandcamp anche. Poi però abbiamo rivinto quei quattro pezzi nel disco che abbiamo sempre prodotto noi, l'altro prodotto, che è del 2014 e si chiama What the Fuck is Future, e appunto ed è al momento l'ultimo parco discografico che abbiamo. In realtà abbiamo fatto anche un'altra canzone che uscì nel 2019, quindi appunto Contro la Rovescia, e che abbiamo già mandato in radio. Che abbiamo già mandato in radio, sì. Esatto, in cui abbiamo deciso di cambiare appunto completamente una serie di cose, tra cui l'utilizzo italiano. Infatti il disco nuovo, che è praticamente già pronto, è interamente italiano. Ok, giusto una cosa, ti sentiamo un pelo male, non so se sei in viva voce, eccetera. Sì, no, ti sto parlando col telefono. Ok, allora niente, va bene, allora si sente un po' così. Va bene, allora un'altra domanda invece che faccio solitamente ai gruppi, dato che siamo stati in periodo di pandemia, di Covid, eccetera, quanto e come il Covid ha influenzato questi due anni per il gruppo, tutti gli altri gruppi che ho intervistato fino ad ora, 95% diciamo hanno avuto un momento prolifico nel quale produrre nuove canzoni, appunto se ne sono usciti in questo periodo facendo uscire molti dischi e nuovi album, invece alcuni sono riusciti finalmente a finalizzare quello che avevano prodotto pre-Covid. Invece volevo chiedere a voi, siccome non, al momento, perlomeno per quello che sappiamo, non state facendo uscire nessun nuovo album, purtroppo, e ahimè è noi, volevo chiedervi invece come questi due anni insomma hanno influenzato la vita del gruppo. No, allora, cioè, dico, questi anni i due hanno influenzato perché anche abbiamo le robe, però appunto, parlando del Covid, è che noi in realtà l'album l'abbiamo terminato nel 2000 e a fine 2020, il disco nuovo. E solamente che appunto avevamo voluto stampare un vinile, però appunto parlando di Covid, come ha cambiato la roba, il Covid, come tu ben sai, ha intasato un po' la filiera, oltre che la carenza di materie prime, anche la filiera dei dischi. Appunto, per tutti, come tu dicevi, c'è stata una sacca di produzione nel periodo di stop, e quindi le band hanno prodotto, vogliono stampare, il problema è che appunto c'è carenza di materie prime, c'è un po' un blocco degli approvvigionamenti, anche dovuto sia delle cause di stop della pandemia, sia a cause di aspetti economici. E quindi al momento il disco in realtà non siamo riusciti a stamparlo, anche se è già pronto, dobbiamo solo stamparlo fisicamente, quindi probabilmente abbiamo ancora una minima di tempo per capire se riusciamo a trovare chi ce lo possa fare o meno, altrimenti comunque in qualche modo usciremo qualcosa di nuovo in questi periodi, cioè, e poi stamperemo anche il vinile. Un'altra cosa che volevo dire riguardo della roba del vinile, della pandemia, che comunque anche la roba del vinile, che prima era un'espressione tendenzialmente che oramai era quasi relegata o finita all'interno di ambienti quali DIY piuttosto che la roba dei DJ, adesso invece ha avuto un nuovo rilancio anche soprattutto all'interno dei prodotti delle major, dei grandi artisti che stampano vinili, e quindi considerando che a un certo punto l'industria dei vinili è stata ridimensionata perché sembrava destinata a sparire, ci si è trovati con questo collo di bottiglia di super richiesta, e noi abbiamo avuto diverse cancellazioni da ditte che stampano vinili, non solamente in Italia. Quindi sì, la pandemia sicuramente costa... No, dicevo sì, perché praticamente in Italia a un certo periodo c'era forse solo una ditta che stampava sotto le 20.000 copie di vinili, che era proprio qua in zona Milano, comunque ti parlo di 7-8 anni fa, quando comunque uscivamo noi col vinile con i Cospirazione, c'era solo una ditta in zona Lodi che stampava poche copie, tra le 500 e le 1.000, non lo so, quelle del giro di NY, e immagino che ora invece... questa richiesta è aumentata, ma comunque non saranno moltissime le aziende in Italia, forse esatto, sono più all'estero. Esatto, aumenta la richiesta, ma aumenterà anche il costo. Il costo nuovo di copie da poter fare ha uno stesso tipo di costo. E quindi, insomma, la roba del vinile, infatti, questa cosa qua in Italia noi abbiamo sentito quella di cui parli, ci sono due o tre in Italia adesso, che però appunto sono piene di hanno prenotazioni fino alla fine dell'anno, pare. Quindi capisci che se tu stampi, cioè tutti stampano vinili, le vendite sono sempre di meno, in più c'è anche la roba delle materie prime che c'è un po' di carenza. Però adesso vedremo di in qualche modo di dare nuovamente nuova musica ai nostri fan, anche perché è un po' di tempo ci faccia sentire, nonostante abbiamo suonato anche durante il periodo in cui tutti stavano, non suonavano, noi diciamo che appunto essendo all'interno della scena di Hawaii, delle occupazioni, un po' così, ci è capitato anche di suonare anche nei momenti in cui era vietato ogni tipo di concerti, così che no. Quindi diciamo non ci si può lamentare da questo punto di vista, meno di quanto potevano suonare, però insomma adesso piano piano si ricomincerà, si spera, con i concerti. E appunto disco nuovo, quindi uscirà tra breve, comunque state sintonizzati sui nostri canali, e sarà tutto in italiano, come appunto anticipavo prima, e niente, quindi l'etichetta è autoprodotto anche questo, perché le etichette, anche quello, esatto, il Covid tendenzialmente ha portato anche alla sparizione di tantissime micro etichette, piccole etichette che si muovono sotto bosco underground, appunto due Hawaii. E infatti anche per livello concerti, cose che indubbiamente il Covid aumenterà ancora di più la forbice che già esisteva tra i gruppi mainstream e i gruppi sotterranei. Eh sì, e io volevo chiederti invece, appunto, tu dicevi questa cosa qui, invece volevo chiederti di prossime date, se ne avete in programma, già state suonando comunque un po' in giro, come hai detto tu. Avevate suonato anche a novembre o dicembre, se non mi sbaglio, in zona a Turbigo, comunque in zona qui nel Milanese, poi siete andate anche a Pinerolo, eccetera, eccetera, eccetera. Se avete prossime date già fissate, se hai voglia di comunicarci. Se tutto va bene, dovrebbero essere il 21 di maggio al Pacipaciana, il 27 con la presentazione di La Gara negli Occhi, anche ci sarà, per chi non avesse visto, avesse la copia, è un buon motivo di venire a farsi un giro. Il 27 dovremmo suonare in Scintilla, e per il momento, adesso il momento non l'abbiamo tra, forse una data nel Milanese in giugno, però deve ancora confermare. Vediamo, forse una data il 15 giugno che te la propongo ora, seduta stante. Vediamo, un'infrasettimanale. Esatto, capiamo. Esattamente, bravo. Capiamo se ci siete. Esattamente. E questo è, infatti, io vi invito comunque a venire appunto a partecipare con quello vicino, Bergamo, Milano, insomma, si può fare come trasporto. Si fa un giretto, si esce pure fuori da questa metropoli. E va bene, esatto. dai, grande, noi ti ringraziamo, siamo in mega ritardo, ma il tempo per sentirci altre due tracce, come facciamo solitamente, ci sono, ci sentiamo Free Little Pigs, poi mi dici se la scelta, insomma, è garbata o meno. Dai, tranquillo, mi fido della tua scelta. Poi non lo so, poi una era un po' combattuto, però della compilation, quella con la tossa grassa, lo vuoi nel culo, per rimanere anche se... su un pezzo che avevamo messo dei Colpos, che parlava un po' di vomito, e anche lì messo in certi ambiti, in certi... Toccami mentre vomito, magari. Toccami mentre vomito, vedi, perfetto, tu sei un grande fan. Esatto, abbiamo suonato con loro, penso, il loro primo concerto alla nave, alla barca, scusami, a Torino, occupata. Abbiamo suonato con loro e loro erano ben contenti dicendoci: ah, grazie, voi siete stati una grande ispirazione per noi, ci hanno detto, quindi. Vabbè, Split subito col post Filthy Generation, dai, mo, che fate uscire questo nuovo album, tre tracce, le registrate in un mese e facciamo lo Split. Si potrebbe fare. Esattamente. Problema sui tempi biblici dei compagni e le compagne, il problema è quello. Esattamente. E dei musicisti. Va bene, dai, grande. Quello sì. Noi ci sentiamo queste due tracce e poi continuiamo con la diretta. Grazie a te, buona serata. Okay, grazie alla disponibilità. Grazie a te, ciao, okay. Ciao, un saluto a tutti, ascoltatrici. Ciao, buon proseguimento. Ciao. Repression and intolerance, it's your honest pain. You fucking shit, blast with your castle. Okay, with your victim, there is a love history that they massacre. Ok, questi erano i Filthy Generation, sono le 21:21, siamo in ritardissimo sulla scaletta, ma questa è l'ultima puntata. Allora, proviamo come al solito a dare un paio di informazioni, di news, di aggiornamenti che vengono fuori dal carcere. Lo facciamo oggi in ritardo e poi diciamo anche un po' di iniziative siamo riusciti a reperire per la settimana prossima e qualcosina anche in più. Allora, partiamo subito da una notizia che arriva da Foggia, perché a quanto pare arriveranno i gomma a Foggia, e questo perché ci sono state 17 aggressioni in un mese al carcere di Via delle Casermette, e il caro segretario generale SAP, il Cabece stesso, sta spingendo in maniera tale che appunto arrivino i gomma all'interno delle carceri. Questo anche insieme al dirigente del personale Massimo Parisi del DAP, insomma questa è una cosa abbastanza nuova, perché i GOM solitamente sono presenti all'interno delle carceri speciali dove ci sono le sezioni 41 bis e arrivano in caso di rivolte da sedare, e nel momento in cui arrivano in delle carceri normali, dove ogni tanto avvengono insomma delle aggressioni, degli screzi tra detenuti e secondini, questa potrebbe essere una novità da non sottovalutare, quindi volevamo darvi un po' questa notizia. Altra notizia riguardo una rivolta, logicamente la chiamano sempre così anche perché se l'avvenimento accade a Santa Maria Capovetere, dove gli sbirri sono sporcati le mani con il sangue durante le rivolte del 2020, con la rappresaglia insomma che c'è stata a maggio 2020 nei confronti di detenuti e detenute, c'è, come sapete tutte e tutti, il processo aperto. Diciamo che insomma sono state delle persone che nelle celle hanno provato a rivoltarsi, mass media di regime dicono, distruggendo celle, incitando alla rivolta e armandosi di sbarre e delle brande. Per chi non lo sa, le brande all'interno delle carceri sono fatte di ferro e sono inchiodate insomma a terra, però se ci si ingegna si possono spaccare insomma le brande, si possono usare dei pezzi di ferro come mazze, e quindi sono stati feriti solo purtroppo due agenti della penitenziaria. Peccato, speravamo ne venissero feriti di più. Poi andiamo molto velocemente con una carrellata di altri episodi di aggressione nei confronti di secondini, quindi un po' questa rivalsa dei carcerati e delle carcerate ci teniamo sempre a comunicarla a Cronache di Regime. Ad Alessandria sono state date a fuoco due celle e un agente è stato aggredito, la stessa cosa nel carcere di Ivrea, dove un detenuto in isolamento ha provato a strangolare, ha preso per il collo un altro secondino. Nel carcere di Uta, un detenuto da solo, dicono i mass media di regime, quindi prendiamo sempre con le pinze queste notizie, aggredisce quattro agenti del carcere e distrugge la cella dove viene rinchiuso. E ancora un'altra aggressione in carcere nei confronti degli sbirri di merda, avvenuta a Massa, dove un detenuto ha aggredito un secondino e il povero secondino a piagnisteo si è fatto refertare in ospedale e la prognosi è di 7 giorni. Queste sono le notizie che siamo riusciti a reperire con Cronache di Regime. Proviamo a dirvi un po' delle iniziative che ci saranno in settimana per l'ultima volta durante questa stagione. Allora, partiamo subito da domani, l'abbiamo anche pubblicizzata l'iniziativa alla libreria Nanzi, nella nuova sede appunto di via Enrico Cialdini. Alle ore 18 ci sarà l'aperitivo, alle ore 20 appunto una chiacchierata sulla guerra in Ucraina e ci sarà una discussione dei testi che potete trovare su autistici.org/distruzione scrivendo Tra due fuochi. Ci sono una serie di raccolte appunto di testi degli anarchici russi, bielorussi, ucraini riguardo la guerra e il conflitto russo-ucraino, e poi a seguire ci sarà una cena Bella Vita. Il 14 aprile invece a Saronno ci sarà il Cineforum, film più discussione, loro sottolineano iniziamo puntuali alle ore 21 e ci sarà la proiezione di Snowpiercer. Questa settimana in teoria dovrebbe esserci la due giorni contro la repressione, l'abbiamo anche pubblicizzata settimana scorsa in Villa Vegana il 15 aprile alle ore 19, aperitivo aggiornamento sul processo per il corteo del 9 febbraio in solidarità e risposta allo sgombro dell'asilo occupato. Invece il 16, sempre dalle 19, chiacchiera aggiornamento sulla solidarità alle lotte anticarcerare. Ci saranno vari gruppi, porta la distro, lascia a casa il cane. Ricordiamo, la Villa Vegan si trova in via Litta Modignani 66. Il 15 aprile invece in Baronata ci sarà Cabaret Circus presso la Baronata, sita in viale Faenza 12/7, all'inizio alle ore 18, aperitivo più musica dal vivo, alle ore 21 show Cabaret. Il 16 aprile, quindi sabato prossimo, invece alle 9 ci sarà un concerto a Cinisello Balsamo presso lo spazio 2092 con Put Purana, Pip, Radura e Half Mob, un'iniziativa che segnaliamo perché solitamente poi i concertini lì ci si diverte molto, quindi se uno o una vuole andare non è male, lo spingiamo questo appuntamento. Il 16 aprile invece a Varese ci sarà il primo di tre appuntamenti, proviamo a rilanciarli tutti, antimilitaristi. Contro la guerra e la militarizzazione dei territori, no a tutte le guerre, alle produzioni belliche, al militarismo, no all'invio di armi e militari, no NATO e basi militari, contro ogni forma di razzismo, di Stato e sociale, solidarietà e accoglienza per tutti i profughi e profughe senza alcuna discriminazione, per l'autodeterminazione dei popoli dalla parte di chi subisce le guerre. Quindi sabato 16 aprile dalle ore 15, piazza Montegrappa a Varese, ci sarà un presidio. Domenica 24 aprile dalle ore 15 sarà il presidio presso la base NATO di Solbiate Olona, e sabato 30 aprile invece alle ore 14:30 ci sarà il corteo col ritrovo nel piazzale della stazione di Varese. Quindi questa serie di iniziative organizzate dalla rete di Varese Senza Frontiere contro la guerra. C'è anche il canale Telegram No alla guerra Varese provincia per seguire gli aggiornamenti. Ricordiamo, sabato 16 aprile presidio in piazza Montegrappa, domenica 24 presidio la base NATO di Solbiate Olona, sabato 30 il corteo con ritrovo alla stazione di Varese. Siamo quasi arrivati alla conclusione, rilanciamo altre due iniziative. Nel 17 aprile domenica ci sarà un'iniziativa carina in Fornace con Trash Milano, Risorgi Trash, come se non ci fosse un domani, quindi domenica di Pasqua un po' di trash in Fornace. Segnaliamo le iniziative che si terranno da giovedì 21 aprile in poi per i 10 anni del CSOA Lambretta. E invece volevamo rilanciare questa iniziativa che non si terrà in uno spazio occupato. Solitamente evitiamo di menzionare iniziative che si tengono in locali o in luoghi, insomma, che non siano spazi occupati o parchi o situazioni di TAZ dove, insomma, lo spazio si prende in maniera temporanea e si crea uno spazio autogestito momentaneo. Segnaliamo comunque il benefit per l'Ardita Giambellino e la Sant'Ambrose, dove ci sarà il torneo femminile di calcio a 7, appunto organizzato dalle ragazze dell'Ardita e dalle ragazze della Sant'Ambrose, sabato 30 aprile 2022 dalle ore 10 in poi, grigliata, birra e cocktail, dalle ore 18 musica live, alle ore 19 DJ set con Gianna Di Arco e Lucifero presso il campo di via Becchi 2 in Gorla. Ancora non c'è la certezza, rilanciamo solo un altro appuntamento, forse il 24 aprile ci sarà un'altra giornata di sport popolare a Rho, che seguirà alla solita biciclettata che organizzano i compagni e le compagne per ripercorrere un po' i sentieri percorsi partigiani in zona. Bene, noi con Cronache di Regime per questa stagione abbiamo terminato. Ricordiamo che praticamente tra 4 giorni sarà un anno che andiamo in diretta con Malaradio. La prima puntata l'anno scorso l'abbiamo fatta il giovedì 15 aprile. Per ora ci interromperemo con Cronache di Regime. Non faremo più dirette né lunedì 18 né lunedì 25, ma ripartirà un altro programma in forma un po' più leggero per 6 puntate. Per tutti i lunedì di maggio e il primo di giugno, quindi 6 giugno. E niente, ci sarà anche qualcos'altro in programmazione. Ricordiamo che comunque questa puntata la volevamo dedicare a Bruno, che è questo compagno che è venuto a mancare un anno fa, ha deciso di venire a mancare. A inizio puntata abbiamo sentito la canzone del maggio cantata appunto da Bruno, questa canzone di De André, è una canzone che abbiamo sentito anche l'anno scorso il 15 aprile, e ora ci risentiamo un altro pezzo che abbiamo sentito anche l'anno scorso per terminare la puntata, che appunto si chiama Freedom, a song for the soul of a guy called Aizza and a struggle called Palestina, una canzone per l'anima di un ragazzo chiamato Hafiz, una lotta chiamata Palestina. Prima a sentirci questa traccia, ringraziamo tutte e tutti per l'ascolto, e con le dirette di Mara Radio torniamo da lunedì 2 maggio. Un abbraccio a tutte e tutti e buona serata. Sasso per la libertà, come Reza, libera, Reza, libera, Reza, intifada vincerà. Un sasso qua, un sasso là, un sasso per la libertà, come Reza, libera, Reza, libera, Reza, intifada vincerà. Hola amigo mío, que me cuentas desde allá, aquí la misma mierda no se deja de luchar, tengo que contarte que llegaste hasta acá, tu sonrisa y tu mensaje nunca se van a apagar, nunca se van a apagar, aquí hay un hermanito que te quiere celebrar, seguro que te va a gustar lo que ahora cantará, como lo subirá y se va a quemar ese grito de esperanza, de justicia y dignidad, de justicia y dignidad. أنا بعرف إنه في مقام بفلسطين وبعرف إنه في حدا بدافع وماشي عالدين، بس لما تعرف إنه في حدا من برا بحب فلسطين أكثر منا بألف مرة، بتحس بقناعة إنه عايش فيها وبيعادي كل شخص بيحامي عليها، شخص بيعشقها وبيعشق أراضيها، بيفزع لي تبغني ورب وبيراضيها، بتحس إنك فلسطيني بذرة أمل، بذرة بتكبر وبتصير جبل، فشكرا لكل مناضل منكم إن شاء الله يتحقق حلمنا وحلمكم، علموا العديدنا هذه فلسطين، فمن قد يعلم فهذا الشخص لا مثيل له، لكن لم يستطع أن يكمل فصابه خبيث وأتاه الأجل، ودعني أفيدس يا من كلك أمل، ودعني أفيدس يا من كلك أمل، ودعني أفيدس يا من كلك أمل. Alza in alto il pugno chiuso per la libertà contro ogni abuso, alza il pugno fino in fondo, siamo tutti quanti cittadini del mondo, alza in alto il pugno chiuso per la libertà contro ogni abuso, alza il pugno fino in fondo, siamo tutti quanti cittadini del mondo, cittadini del mondo, cittadini del mondo, cittadini del mondo, siamo tutti quanti cittadini del mondo. شكرا لك لانك اعطتني هديه، هديتك